Vendo tutto di Matteo Caccia. Il teatro per intrattenersi, una borsa a tracolla per avere sempre il necessario, una televisione perché senza non si può stare, un paio di sci per scivolare giù e un weekend per non tornare più. E questo è solo una parte di quello che vendo, perché io vendo tutto. La mia ragazza mi ha lasciato, dopo 4 anni insieme mi ha lasciato. Capita, lo so, succede a tutti ed è toccato anche a me. Io però questa volta ho deciso. Mollo tutto e me ne vado. La mia vita di seconda mano è in vendita, io ne inizio una nuova, venite a comprarvela. La vendita è aperta. Oggi vendo il mio paio di sci. Oggi vendo il mio paio di sci, mentre ieri sera invece a casa di un amico si è parlato di sport. Chiaramente era una serata calcistica, ma non solo, erano tutti tecnici presenti e tutti sapevano qual era la formazione migliore da schierare in campo, ma questo era normale. Si è parlato di calcio, ma non solo, e a un certo punto ci siamo accorti tutti quanti che tutti noi, cioè tutti i presenti, avevamo sedimentate dentro di noi delle frasi che ci avevano detto da piccoli quando incominciavamo a fare degli sport. Siamo partiti dal calcio ovviamente perché quello si stava guardando, però poi siamo andati anche oltre. Ad esempio, la prima cosa che mi viene in mente è che il mio mister, quando giocavo nei giovanissimi e negli esordienti, prima negli esordienti, poi nei giovanissimi e anche negli allievi del AS Romentinese, poi Re, mi diceva: per giocare a calcio servono 3 cose. Serve stoppare la palla, alzare la testa e passarla. E lì Ale con una miriade di frasi fatte, di massi, che poi più che vere sono una sorta di roba a metà, secondo me. Cioè sono dei dettagli tecnici e sono delle massime. Cioè sono delle frasi che il tuo allenatore, il tuo istruttore, il tuo maestro, quando ci avevi 6, 10, 15 anni, ti diceva. E anche se quello sport non lo fai più, ti rimangono in testa. Tipo Bonini diceva che quando faceva scherma, tra l'altro sport che ha ripreso con ottimi risultati sin da subito, la cosa che il suo maestro diceva sempre è: prima la testa e poi le gambe, giusto? Non era così, vabbè, prima era più o meno così. Anche Laura Faggini invece mi diceva che lei che giocava a pallavolo, stringi quei gomiti, voilà. Invece su Facebook, sul nostro profilo, arrivano decine e decine di frasi come questo. Va moltissimo lo sci, forse perché lo sci è una roba che non è proprio istintiva e quindi ti viene da seguire quello che ti dicono. Tipo Eva scrive: non sederti su quegli scarponi, e questa è buona. Pier: ginocchia piegate, ma dove guardi? Ma guarda avanti, le spalle, girale, perpendicolare alla pendenza. Non so quanti anni abbia Pier, ma ancora questa frase lo tormenta. Fabio invece, giocando a tennis, a proposito del suo rovescio, il suo maestro: apri prima, stai di fianco, colpisci in avanti, non arretrare, prima, apri prima! Insomma, è tutto un florilegio. Filippo mi dice: per giocare a pallavolo metti le mani a cuore, poi quando giocava a tennis chiudi il polso, quando giocava a basket dai e vai, però vabbè, dai e vai. E poi l'ultima, Rosanna, che faceva ginnastica artistica, per quanto riguarda il saluto di entrata e uscita, il suo istruttore le diceva sempre: braccia alle 10:10, spalle basse, pancia in dentro, culo in dentro, petto in fuori, 800240024, oppure 349-238-6666, perché oggi la puntata di oggi verte praticamente su questo, sulle massime che vi hanno detto quando ci avevate 12 anni, 15 anni, ma anche 20, e che vi sono rimaste impresse nella testa, anche se quello sport non lo fate più, se fate altro nella vita, e se magari quello sport lì proprio non avete mai voluto farlo. 800240024, io oggi parlo dello sci, perché è un paio di sci quello che vendo. Se volete vederli, andate sul sito radio24.it. Se volete sentire la loro storia, eccoci qua. Gli sci. Sci marca Folk, modello P20RS, colore arancione, attacchi Tirolia. Lunghezza 197 cm, larghezza 7 cm. Comprensivi di una coppia di racchette Scott di colore arancione e alte. Non sciancrati, adatti alla sciata a piedi uniti. Perfetti per chi ha nostalgia della vecchia scuola sciistica o è alto più di 2 metri. Valore commerciale 55 euro, base d'asta vendo tutto 99 centesimi. Per informazioni e foto www.radio24.it. Per la diretta 800240024. Vendo per volontà di liberarmi di tutto. Peso a valle, sci a monte avanzato. Trasili le anche, sposti il peso e lasci partire gli sci. Spigoli sull'interno, ti ritrovi dall'altra parte, sempre con il peso a valle e lo sci a monte avanzato. Sciare non mi è mai piaciuto. Come per tutte le cose che mi hanno obbligato a fare da bambino, con il passare del tempo ho sempre mantenuto una certa antipatia nei suoi confronti. Anche se quelle cose poi mi divertiva farle, le ho sempre guardate con sospetto. tutto il freddo che mi entrava nelle ossa, le code per fare tutto, per lo ski pass, per la funivia, per il panino, pure per il cesso. E poi ero terrorizzato dallo ski lift. Cioè non riuscivo mai ad afferrare a volo il piattello. Lo vedevo avvicinarsi, si infilava nel binario d'acciaio. L'avrei dovuto ovviamente prenderlo, doveva essere più afferrabile. Invece niente, lo faceva sobbalzare. Ne perdevo due, tre di fila, fino a che il signore dell'impianto non lo prendeva e me lo dava. E lì non era finita, no, lì iniziava il calvario. La mia paura dello ski lift ovviamente era cadere. L'accumulo di tensione per la paura era tale che diventavo un ciocco di legno. Il mio corpo assumeva livelli di rigidità pari solo a quelli di un'opera di Madame Tussaud. Tenevo le gambe strette e dritte per paura che il piattello si sfilasse, però questo non aiutava. Non aiutava soprattutto l'assorbimento delle buche sul percorso. E quindi ad ogni imperfezione del terreno pendevo da una parte all'altra, come la statua di un santo patrono in processione. E per quello, per lo ski lift, non c'era regola che tenesse. Peso a valle, sci a monte avanzato non c'entravano in questo caso. Per me lo ski lift era solo una questione di destino. Se gli sci si infilavano nei due canali creati dal passaggio di quelli che mi avevano preceduto, mi sentivo al sicuro perché la via era già tracciata, però al contempo temevo di infossarmici, di perdere l'equilibrio. In tutto questo ovviamente sudavo come un salame fuori dal frigo e questo aumentava il prurito sulle gambe causato dalla calzamaglia. Sì, perché mia madre si ostinava a infilarmi sta calzamaglia nera da mimo di strada, che era di una lana talmente cruda che sembrava fatta col filo spinato. Una volta infilata la calzamaglia, i maglioni, la tuta da sci, fare la pipì era così difficile che un giorno me la fece addosso. E la sensazione di tepore si trasformò in un attimo in un inferno gelido. Insomma, non vado oltre. Non mi piaceva lo sci. Mi sentivo un minorato. E anche se mi ripetevo peso a valle, sci a monte avanzato, mi pareva non ci fossero regole che tenessero. Gli sci andavano sempre dove volevano loro. Odiavo lo sci. Giulia, chiaramente, lo amava. Lei 3 anni fa mi chiese di andare a sciare, io tirai fuori i miei sci. E lei si mise a ridere. Non sciavo da un sacco di tempo. E non sapevo che nel frattempo l'evoluzione tecnica aveva creato non solo materiali migliori, più resistenti, più leggeri, ma veri e propri sci diversi, con una forma diversa. Erano nati gli sci da carving, che poi non sono altro che sci più corti e ciancrati, punto. Io... Quando lei rise, le dissi che li avevo comprati poco prima di smettere di sciare e che erano quasi nuovi, che erano dei folk, degli sci tedeschi fatti con una cura maniacale e che tenendo il peso a valle e lo sci a monte avanzato, questi ti portavano dovunque. Poi però mi accorsi che erano un tantino fuori moda alla partenza della funivia. Tutti lì tenevano in mano sti sci che gli arrivavano all'altezza delle spalle, mentre i miei superavano la mia testa di circa 10 centimetri. Una volta in cima ho guardato la pista e ho creduto che sarei morto. Che non mi ricordavo come si sciava, che avrei fatto una pessima figura. E invece mi sono allacciato gli scarponi stretti stretti, li ho infilati negli attacchi e via. Peso a valle, sci a monte avanzato. Traslo le anche, sposto il peso, lascio partire gli sci, spigolo sull'interno, mi ritrovo dall'altra parte, sempre con il peso a valle e lo sci a monte avanzato. Ho fatto un paio di piste e piano piano, anche con i miei sci non sciancrati, ho rifatto amicizia con uno sport che non mi era mai piaciuto. Era un giorno di febbraio. C'era il sole e c'era freddo. Ci siamo fermati a mangiare una zuppa valdostana che se hai sciato tutto il giorno è la cosa più buona che c'è. E quando siamo usciti dal rifugio cominciava a nevicare. Io avrei sciato ancora, però lei era più saggia. Mi disse che era meglio iniziare a tornare verso casa. Le piste erano già deserte. Abbiamo preso l'ovo via. Eravamo da soli, io e lei. Da soli nel nostro uovo a 20 metri d'altezza. Poco prima dell'arrivo il nostro uovo si è fermato e non so come, nonostante la tuta, nonostante la calzamaglia, abbiamo fatto l'amore. Quando è ripartita si era fatto buio, siamo arrivati all'auto ma era impossibile muoversi perché le strade erano coperte di neve. Siamo saliti in macchina, abbiamo acceso il motore per riscaldarci e mentre ce ne rimanevamo là, dentro alla macchina, con la musica accesa ad aspettare, Io guardavo le montagne azzurre di neve sopra le nostre teste e pensavo che anche se ogni tanto io litigavamo, anche se avevo degli sci demodé, in fondo ero una persona fortunata ed ero felice di quella giornata. Ero felice di lei e di me, della neve che ci bloccava e del peso a valle e lo sci a monte. E pensavo che forse avremmo dovuto uscire a respirare quel freddo, anche se era notte, anche se nevicava a batuffoli, anche se sembrava irresponsabile. E mentre lo pensavo la guardavo, assopita sul sedile. E mentre la guardavo stavo per svegliarla, per dirle che l'amavo. E mentre lo pensavo arrivò lo spazzaneve. Nonostante tutto, quindi, nonostante siano demodé e non sciancrati, questi sci sono in vendita. E il loro valore è di 55 euro. La base d'asta qui sono 99 centesimi. Se avete delle massime dei vostri maestri da raccontarmi, 800 24 0024. Many a road, you know, I've been walking on all of my days, all of my days. I cried aloud, I shook my hands, what I'm doing here. Sono le 16:19 minuti, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia, il programma si chiama Vendo Tutto. Al 349-238-6666 arrivano i messaggi, ma arrivano anche le telefonate all'800-24-0024. I messaggi sono: il nostro allenatore di volley ha sempre e inutilmente ripetuto. È in dialetto veneto, quindi ci proverò. Laura, perdonami se sbaglio. Zo ze gambe, giusto? Zo. Vabbè, dai, poi lo becco. Giuste gambe. Il mio maestro di karate: stai basso, sulla testa, usa la forza della pancia. Andrea: giocando a football americano, non togliere mai gli occhi dalla palla finché non l'hai bene in mano. La palla cadeva sempre. Domanda dell'allenatore di sci: con cosa devi curvare? Dopo vari boh, la risposta era con lo sguardo. Raffaella: 800 24 0024. Invece parliamo di rugby con Yuri da Milano. Pronto, Yuri? Ciao, come stai? Grazie. Quanti anni hai, Yuri? 26. E giochi nella Milano, come si chiamano la squadra? Oh, magari l'Amatori. Non è l'Amatori? Giocano in un'altra squadra di Milano che è in un'altra categoria, comunque sì, nel Milano comunque. E che ruolo giochi? Pilone. Quindi il pilone, per chi non ne capisce di rugby come me ad esempio, è? Diciamo che, guarda, per farti capire, nel rugby si dice che i tre quarti, ovvero quelli che giocano la palla con le mani, sono quelli che suonano il pianoforte, e noi siamo quelli che lo spostiamo. Ok, quindi quanto pesi più o meno tu, Yuri? Ah, 115 kg. E quanto sei alto? È 1,85. Benissimo, invece dimmi qual è la frase che dicono. Guarda, io me la ricordo, perché la dice spesso il nostro allenatore, ma non è una cosa che mi perseguita in modo cattivo, anzi. E ci diceva sempre che quando si gioca a rugby non si gioca contro un avversario, ma con un avversario, che è una bella differenza. Cioè, nel senso che vi date talmente tante mazzate che, esatto. L'unica idea è quella di volersi un po' bene. Esatto, che non vale la pena. Ok, quindi si gioca con e non contro l'avversario. Grazie mille, Yuri. Ciao, no, buona giornata. No, okay, andiamo a Vicenza da Franco. Pronto? Ciao. Ciao, Franco. Ci sei? Sono qui. Bravo, ma sei in un luogo in cui però il tuo cellulare sembra un forno a microonde, però, più che altro. Guarda, Franco, dobbiamo riprovare. Se magari ti proviamo a richiamarti, se ti metti in un posto con un po' più di campo, magari ce la facciamo. Rimaniamo a Milano e andiamo da Andrea. Pronto? Ciao. Ciao, Andrea, tutto a posto? Sì, tutto a posto. Sono fermo alla piazzola, così non vado avanti e indietro con l'onda. Perché tu, infatti, sei di Milano, ma non sei di Milano. No, io sono di Roma. Sono di Roma. Vivo a Milano, ma sono di Roma. E che cosa fai nella vita? Nella vita faccio il consulente però per il marketing. Però sei anche... Ah, guarda, adoro i consulenti. Quando capirò esattamente cosa fanno i consulenti... Sono quelli che danno i consigli che dovresti sapere da solo. Ok, però ci sono consulenti di tutto. Quella è la mia... Sì. Uno potrebbe essere consulente in qualsiasi cosa. Ma vabbè, torniamo a noi. Tu però sei uno sportivo anche, giusto? Io sì, ho apprezzato molto il racconto sugli sci, perché una delle prime cose che ho fatto a Milano... Io sono appunto di Roma, dove la neve non c'è mai, tranne in occasioni strane. E ho imparato a sciare... per amore, voglio dire, così. Poi l'amore è passato e lo sci è rimasto. Però ho comprato gli sci corti, che è più facile, quindi. Ok. Però faccio l'istruttore di sub, e quindi, appunto, visto che una delle due cose che vuoi fare è andare sott'acqua e prendere il brevetto, beh, insomma. Magari ne parliamo fuori onda. Invece c'è una cosa che tu dici sempre ai tuoi allievi? Beh, la cosa più divertente da dire agli allievi è che tu, appena entri dentro l'acqua, tutti vogliono inseguire i pesci. E quindi la cosa che dici sempre è: non seguite i pesci, non toccate niente, imparate a respirare e stabilizzatevi, cioè, ad una certa altezza. Che imparate a respirare. Che imparate a respirare è una bella frase, nel senso che in teoria respirare, no? Nessuno sa respirare come dovrebbe, perché usiamo già, si sa che si usano il 40% dei nostri polmoni sott'acqua. Più impari a respirare, più il tuo respiro è lento, più rimani sott'acqua, più godi la... Però c'è questo problema, no? Che quando respiri vai un po' più su e poi quando espiri vai un po' più giù. Sì, per questo c'è il giubbotto equilibratore che ti aiuta se sai usarlo. Ma guarda, di questo ne parleremo quando ti chiamo per il corso da sub. Per ora mi tengo imparate a respirare. Grazie mille, buona giornata. Okay. Ciao, andiamo a Ferrara, da Roberto. Ciao, pronto? Ciao Matteo, sono Roberto. Ciao Roberto, bene, se allora eri esattamente la persona di cui avevo bisogno, Roberto. Dimmi che cosa fai e qual è la cosa che ti dicono di continuo. Ma allora, io facevo a 16 anni un corso di paracadutismo e il mio istruttore, quando mi vedeva non all'altezza del compito, mi diceva: ragazzo, la curva dell'attenzione. Che significa, che ho scoperto dopo anni cosa voleva dire quest'uomo, cioè? L'attenzione ha dei cicli, quindi va da zero a un picco, poi scende, e lui voleva richiamarmi, ma l'ho scoperto molti anni dopo. Però ancora adesso, con 50 anni, quando ho bisogno di qualcosa, io mi dico mentalmente: ragazzo, la curva dell'attenzione. Mi sento ancora la sua voce nelle orecchie, urlo nelle orecchie, che mi dice: ragazzo, la curva dell'attenzione. La curva dell'attenzione. Ti ringrazio, Roberto. Ci penserò anch'io quando mi butterò a breve col paracadute. La curva dell'attenzione. Ciao, grazie. Ciao, ciao. In gamba anche tu. Telma da Cuneo, pronto? Eccomi. Telma, dacci il tuo vero nome però, perché Telma è chiaramente uno pseudonimo, no? No, assolutamente, mi chiamo Telma. Ma Telma con l'H? Con l'H, come la nonna. Come la nonna? Sì, la nonna si chiamava Telma e io... Ah, come tua nonna, scusa, credevo che la nonna fosse un personaggio. Perdonami, come tua nonna. Senti, invece dimmi che cosa ti ripetevano e in quale attività. Dai gambe, quando montavo a cavallo e trattenevo il cavallo perché avevo una paura boia. Ma dai gambe cosa vuol dire? Che devi stringere il cavallo? No, dai gambe nel senso manda questo cavallo, lascialo andare dai gambe. Non è molto chiaro, però va bene uguale. Cioè, devi colpirlo? No, non ho capito. No, dai gambe significava stringerlo con le gambe. Lui sentiva questa pressione e ovviamente aumentava la falcata. Ah, ok. Quindi è la solita storia di far sentire all'animale chi è che comanda, più o meno. Sì, esatto. E quindi aumentava e invece io trattenevo. Va bene, Telma come la nonna, grazie mille. Ciao, un abbraccio. L'ultima telefonata, Massimiliano da Pavia, pronto? Ciao Matteo. Ciao Massimiliano. A credo della tua spiegazione sulla sciata con il folk P20, che avevo anch'io. Grande. Il maestro Valdostano mi diceva di non fare la polenta, perché le braccia non dovevano praticamente girare come se avessi un grosso pentone sotto. Non dovevano roteare. È vero, questa della polenta me la ricordo anch'io. Insieme a un'altra, guarda, e poi ti saluto insieme a: se non stai avanti ti metto gli spili negli scarponi. Grazie mille Massimiliano. Ciao. Ciao e buona giornata. Visto che si parlava di salto col paracadute, vi racconto un pochettino più in dettaglio quali sono le cose che voglio fare con i soldi che mi farò da questa vendita. Fare il bagno nelle terme di Nagano insieme ai macachi. Scalare il Monte Rosa. Attraversare l'Atlantico su una nave cargo. Lanciarmi col paracadute da 6.000 metri. Sposarmi a Las Vegas. Non importa con chi. Giocare una partita a tennis con Nadal e batterlo. Portare a cena fuori Natalie Portman. Fare un viaggio in mongolfiera. Spaccare a pallonate tutti i vetri di casa dei miei e poi ricomprarglieli. Imparare a suonare la batteria. Incontrare Obama, Mourinho e il Dalai Lama. Fare un viaggio con la Transiberiana. Vedere una finale del Super Bowl. Vedere il Taj Mahal. Attraversare la foresta amazzonica. Vedere il deserto della Patagonia, quello del Gobi e quello del Nevada. Imparare il cinese. Imparare l'arabo. Prendere il brevetto da pilota e quello da sub. E poi imparare a camminare sul filo. Qualche ultima massima: vincere con modestia, perdere con dignità. Allenatore di rugby, ancora: basta parlare o ti tiro una pisata del cul. E lo diceva un allenatore a Giovanni di Vittuone. E poi il mio meccanico, evidentemente è un pilota, quando non sai cosa fare apri il gas. Tommy da Modena, io ringrazio Laura Faggin, Tiziano Bonini, Alessandro Genovesi e il Paolino Corleoni che ha aperto il gas di là per noi oggi. I miei sci sono sul sito radio24.it, dove potete anche risentire la puntata di oggi. Domani, più che un oggetto, vendo del buon tempo, vendo un weekend per due persone in una città d'arte. Voi invece, a fine stagione, dopo che avete sciato per tutto l'inverno, liberatevi dei vostri sci, che alla fine pure quelli sono solo degli sci. Love, love, love.